Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento, credo anzi è senz'altro l'ultimo dell'anno con l'Adico, perché poi non ci fermiamo assolutamente, ma ci ritroveremo con lunedì 2 gennaio. E con noi al telefono abbiamo il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, e un augurio anche a tutti i nostri radioascoltatori, per coloro che insomma trascorreranno un lieto fine anno, con l'auspicio che insomma il prossimo 2017 riusciremo a raccontare anche tante belle vicende concluse positivamente, non solo negativamente. Ecco, abbiamo sempre bisogno di buone notizie, effettivamente. Allora Carlo, siamo nel periodo delle feste e come dire, forti anche magari di un po' di tredicesima per qualcuno, abbiamo fatto qualche spesa, no, in più? Beh, certamente, avendo appena trascorso il Natale, bisogna fare anche dei bilanci, soprattutto per coloro che hanno anche avuto la possibilità, il modo di impegnare la tredicesima, ma anche in virtù di quella che è stata una polemica che insomma ha visto un po' riempire i quotidiani nell'ultimo periodo, per coloro che, per quei punti vendita che hanno deciso di rimanere aperti 26 o chiuso. Le notizie che oggi abbiamo appreso dalla stampa è quello che comunque il Santo Stefano è stato un giorno di intensi scambi, e quindi malgrado le posizioni che ciascuno di noi ha in questa vicenda, certamente molti consumatori ne hanno approfittato un pochino per fare alcuni acquisti che magari durante le festività o prima non sono riusciti a fare. Sì, perché vuoi anche il bel tempo che ha permesso, come dire, dopo magari un pranzo anche del 26, di farsi una bella passeggiata in centro, ma anche il centro commerciale, evidentemente questo ha fatto sì che qualcuno facesse qualche spesa. Sì, certamente. Noi qua nel Veneziano, per esempio, abbiamo avuto gli ipermercati che insomma hanno fatto un po' da apripista questa polemica tra coloro che hanno deciso di rimanere aperti e coloro che hanno deciso di rimanere chiusi. Certamente però parlare di bel tempo e parlare di Santo Stefano, immaginare persone che vanno in centro commerciale, certamente ci fa capire come un po' le abitudini delle famiglie sono cambiate. Noi personalmente non è che questa cosa la prendiamo con molto entusiasmo, però certamente dobbiamo renderci conto che ormai questo fenomeno esiste e quindi dovremo imparare ad accettarlo. Un Natale che comunque ha segnato qualche punto di ripresa rispetto agli anni precedenti, perché comunque al di là di quelli che sono poi tutti i dati pessimisti, hanno fatto registrare insomma dei buoni affari, almeno i commercianti tutto sommato si stanno abbastanza ritenendo soddisfatti della mole di lavoro che c'è stata. Ricordiamo anche che noi oggi siamo alla vigilia dei saldi e tanti hanno anche approfittato per cominciare a andare, muoversi un po' prima e andare a fare qualche acquisto in virtù anche di qualche buono che hanno ricevuto come regalo e che adesso comunque hanno l'opportunità di andare a realizzare e magari così anche ad informarsi un pochino sulla possibilità di fare qualche buon affare. Ecco, poi tu parlavi dei centri commerciali, proprio ieri dicevo di un esercizio commerciale che c'è dalle parte vostre a Marghera, che ogni sera organizza un concerto e anche o spettacoli di cabaret di tutto rispetto. Sì, ormai i centri commerciali stanno utilizzando delle strategie incredibili per attirare il consumatore presso le loro strutture. Certamente siamo passati da una fase di promozione con i volantini a una fase di intrattenimento e di spettacoli. Certamente sta diventando, come detto poco fa, non solo un punto dove andare a fare acquisti, ma anche la società sta mutando a tal punto che questi ipermercati si stanno trasformando anche in luoghi di aggregazione, di spettacoli e di cultura. Qui, come detto, è difficile esprimere una chiara posizione, perché ci sono feste che insomma personalmente c'è chi le preferisce trascorrere a casa o cogliere l'occasione per andare a trovare amici e parenti che magari durante tutto l'anno si è avuto poco tempo di fare, e c'è chi certamente è costretto a lavorare e esprime un giudizio negativo sul fatto che questi ipermercati rimangono aperti in certi periodi. Io personalmente non vedo la cosa con grande favore, perché sono un frequentatore dei centri storici, però devo accettare questo fenomeno e insomma, oltre che accettarlo, insomma, rassegnarmi che soprattutto anche questi giovani vedono in più nei ipermercati quella che una volta erano le nostre piazze. Esatto, è un po' cambiato il mondo. Vabbè, allora, aspettando i saldi che in qualche modo con le offerte che arrivano sui telefonini, buoni sconto, sono quasi direi partiti, ci risentiamo al 2 di gennaio per un'altra puntata con l'Adico. Grazie a Carlo Garofolini, ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it. Sì, io Francesco, prima di rinnovare i saluti e gli auguri a tutti gli ascoltatori, faccio presente anche che in questo periodo l'Adico rimarrà sempre aperta, per cui per coloro che hanno bisogno di ricevere informazioni o assistenza possono contare sui soliti numeri e riferimenti che ormai mi auguro tutti insomma hanno imparato a conoscere. Bene, grazie Carlo e a lunedì 2 gennaio. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.